Conto alla rovescia. Bentornati da Gigi Donnelly a questo appuntamento con Conto alla rovescia. Mentre l'amministrazione Obama valuta il futuro del programma spaziale statunitense, dalla NASA arriva una scoperta eccezionale, tale da far pendere forse la bilancia a favore di un ritorno sulla Luna. Notevoli quantità d'acqua, dice la NASA, ovviamente sotto forma di ghiaccio, sarebbero intrappolate sotto la superficie. La presenza è stata rilevata spettrograficamente dalla sonda L-CROSS. La notizia e l'entusiasmo però non è stato condiviso dalla scienza internazionale. Allora abbiamo chiesto aiuto ad un esperto, al professor Piero Benvenuti, astrofisico all'Università di Padova, per capire: l'entusiasmo della NASA è giustificato sì o no? L'entusiasmo espresso dalla NASA e dai ricercatori della NASA è molto comprensibile, perché l'esperimento era molto rischioso e non era assolutamente detto che desse i risultati che hanno ottenuto, cioè poteva anche essere un risultato dubbio, inconcludente. Questo significa che semplicemente che ci sono delle piccole pozzette di ghiaccio nelle zone più fredde della Luna, ma questo è quasi insignificante per quanto riguarda la possibile costituzione di una base lunare. La situazione potrebbe essere diversa per Marte? Certo, per Marte la situazione è molto diversa. Sappiamo che c'è acqua e con tutta probabilità, questo probabilmente lo vedremo con la missione ExoMars che l'ESA sta preparando, ci potrebbero essere sotto la crosta di Marte dei segni, dei depositi di acqua. Questo perché la costituzione anche di Marte, come si è costituito, molto simile a quella della Terra. Insomma, l'acqua di Marte potrebbe valere molto di più di quella di Luna. Ah, certamente, sì. E allora su Marte l'interesse di andare su Marte e scavare in profondità e di vedere nei tempi passati qual è stata l'evoluzione del terreno. Ma sulla Luna direi che ormai gli scienziati hanno capito la costituzione soprattutto lavica della crosta e l'assenza di qualunque segno di un'atmosfera o dell'acqua sul terreno. 3, 2, 1, 0, lift off. Lancio riuscito senza problemi per lo shuttle Atlantis dalla base di Cape Canaveral in Florida. All'inizio della settimana è intanto partito lo shuttle Atlantis. Il team ha raggiunto con successo la Stazione Spaziale Internazionale e ora sta portando avanti il suo programma di lavoro. Una volta rientrato mancheranno solamente 5 missioni shuttle di costruzione appunto alla Stazione Spaziale. E proprio ieri un passaggio di mano importante, il nodo 3, ribattezzato dagli americani Tranquility, è passato di mano dal costruttore Thales Alenia Space di Torino appunto alla NASA, insieme anche un componente molto atteso dalla costruzione di quello che è la grande base avanzata dell'uomo nello spazio. Sentiamo a questo proposito il presidente di Thales Alenia Space Italia, l'ingegner Pasquali. Il nodo 3 è un elemento importante. La stazione spaziale, come sapete, è una costruzione che è fatta di tanti moduli. Tre di questi moduli si chiamano nodo proprio perché consentono di connettere parti diverse della stazione. Ne abbiamo realizzati due in Italia, il nodo 2 e il nodo 3. Il nodo 3 si chiama Tranquility perché richiama peraltro il mare, l'area dove l'uomo è atterrato sulla Luna, e ora noi lo stiamo consegnando alla NASA come risultato di un lavoro che Thales Alenia Space in Italia fa a Torino ormai da alcuni decenni. Si deve ricordare che noi abbiamo realizzato più della metà degli ambienti pressurizzati, cioè quegli ambienti dove gli astronauti possono operare e passano la loro giornata nell'ambito della stazione spaziale. Uno dei lati del nodo 3 sarà montata la cupola, che essenzialmente non è altro che un punto attraverso il quale gli astronauti possono osservare all'esterno, quindi è veramente una finestra sulla Terra, una finestra sullo spazio, sull'universo. Dal momento in cui cupola sarà in orbita e montata sulla stazione spaziale, potranno avere un punto di visibilità verso l'esterno. Dalla Stazione Spaziale Internazionale a Marte e di nuovo per parlare di Spirit, il rover della NASA che purtroppo è nei guai da parecchie settimane. È infatti insabbiato e ha fatto solo un passetto, praticamente un secondo di movimento per le sue 5 ruote, la sesta è bloccata da tempo. Le attività di recupero di Spirit, insomma, non hanno portato per ora risultati. Il robottino esploratore è rimasto insabbiato il 23 aprile scorso in una zona di Marte denominata Troy. Le operazioni per liberarlo e rimetterlo in marcia nella sua attività esplorative potrebbero durare fino alla fine dell'anno. Chiudiamo come sempre con l'aggiornamento dei lanci. A Cape Canaveral è pronto Atlas 5, che verrà lanciato il 23 ottobre. Lo stesso giorno in Kazakistan a Baikonur è previsto il lancio di un Proton, ovviamente russo. Entrambe le missioni porteranno in orbita dei satelliti commerciali. Siamo in conclusione, radio24.it, ve lo ricordo, per sentire e risentire tutti i programmi di Radio 24. Un ringraziamento a Fabio Cantadori in regia. A voi l'augurio di un ottimo fine settimana. 3, 2, 1. We have ignition.